diario di Q. Venezia, 5 novembre 1548. Il bambino che crede Gesù una statua. Ho percorso la città in lungo e in largo. Cerco un tedesco, affidandomi all'intuito. Le librerie dove potrebbe aver acquistato il beneficio di Cristo. Ho visitato la bottega di Andrea Arrivabene, il libraio all'insegna del pozzo, un posto che Tiziano conoscerà senz'altro. Ho finto di essere interessato alle dottrine dell'anabattismo, sperando che mi indicassero qualcuno a cui rivolgermi. Niente di niente. Venezia, 7 novembre 1548. Il bambino e la statua di Cristo. Il bambino che credeva che Gesù fosse una statua. Il bambino di 5 anni. Il bambino a cui Bernard Rothmann, pastore di Münster, domandò chi fosse Gesù. Una statua. L'aneddoto ripetuto all'infinito, nei giorni della malattia, i giorni di Re Davide. È difficile tornare indietro, doloroso. Ricordi di conversazioni lunghe, interminabili, sobillando la pazzia del predicatore, suggerendo a una mente delusa e smarrita le scelte più insane. Terrore e lenta dissoluzione. Gli ultimi giorni di Münster. Fuori da quelle mura, il primo brivido di incertezza. Ho voluto dimenticare. Tiziano, il pellegrino tedesco che ha battezzato ad Alberto Rizzi, alias Frate Pioppo, Frate Lucifero e i Pirati del Po, ha conosciuto Bernard Rothmann. Qualcuno di Münster, qualcuno che ho conosciuto. Sono sceso di nuovo in strada, questa volta a cercare un volto. Mi sono girato di scatto a ogni parola pronunciata nella mia lingua. Ho scrutato i visi, sotto le barbe, oltre i capelli lunghi o corti, tra le cicatrici e le rughe. Come un'allucinazione, in ognuno c'era qualcosa per confermare un sospetto. Questo non servirà.